Effetto Mondo. The eyes of the world are upon us. Every nation in the world is watching what the President of the United States says. And there's a battle going on around the world between authoritarianism and freedom. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo è un personaggio che tu segui con un certo interesse. L'avevamo promesso ieri, questa intervista che Mitt Romney, senatore repubblicano dello Utah, e ricordiamo è l'unico senatore che in Senato aveva votato pro impeachment per il presidente Trump, è un uomo molto calmo, molto misurato. In questa intervista dice: ricordiamoci che prima, tra l'altro, dice anche i nostri bambini ci stanno guardando, quindi attenzione al linguaggio che usiamo. Questo è un altro tratto tipico suo, ha molti figli, tra l'altro. Ma comunque, e poi in questo estratto dice: gli occhi del mondo sono sull'America in questo momento, tutti ci guardano, guardano il presidente, guardano le sue mosse, ed è particolarmente significativo perché in questo momento nel mondo ci sono tanti, tanti paesi dove c'è l'alternativa tra autoritarismo e libertà, e naturalmente il riferimento è quello che succede in Bielorussia e tantissime altre situazioni. E fa parecchio effetto questa intervista, perché poi sui giornali americani di oggi, sulla prima pagina, oltre naturalmente alle prime dichiarazioni di Biden, oltre alla cronaca dalle borse, la reazione all'annuncio di Pfizer, c'è la notizia che ieri Donald Trump ha licenziato con un tweet, facendolo sapere 2 minuti prima al diretto interessato. Il compito è stato affidato a Mark Meadows, che è capo dello staff di Donald Trump, ha licenziato il segretario della difesa, quindi il capo del Pentagono, il capo del Ministero della Difesa. Secondo il New York Times, le prossime teste a cadere, proprio così scrive il New York Times in prima pagina, sono il numero uno dell'FBI e il numero uno della CIA. Accusati, anche senza mezzi termini, come sappiamo fa Donald Trump, di non aver da una parte abbastanza investigato tutte le accuse che la Russia abbia in qualche modo cercato di influenzare le elezioni americane, e dall'altra di aver perseguito troppo i gruppi dei suprematisti bianchi e troppo poco gli estremisti di sinistra, che fanno un po' capo a quei gruppi che chiamiamo Antifa, che poi è l'abbreviazione di antifascist. Giulia, aggiornaci anche sulla questione dei ricorsi, no? Dei legali di Trump, che ha cominciato con la Pennsylvania, se non ho capito male. Sì, in questo caso è molto utile il box che fa USA Today, che spiega perché proprio ieri abbiamo sentito le parole di Al Gore, perché è una questione molto diversa dal riconteggio che ci fu in Florida nel 2000, che, lo ricorderete, riguardava appunto solo lo stato della Florida, che avrebbe poi dato la vittoria a George Bush Jr., ed era veramente una questione di poche centinaia di voti. Lo stato delle cose in questo momento è che, benché un fedelissimo di Donald Trump, il ministro della giustizia, l'attorney general si chiama negli Stati Uniti, Barr, ha dato il via libera a tutte queste inchieste, questi ricorsi, nessun quotidiano dà notizia, ma perché la notizia non c'è e quindi non viene data, che ci siano dei validi motivi, e torniamo sulla questione dei validi motivi, delle prove, della evidence di questi brogli. Perché, per esempio, in Pennsylvania, se ricordo bene, si fa un riconteggio se c'è un risultato inferiore allo 0,5% di differenza. Se quindi, esatto. Altrimenti non c'è riconteggio. In altri casi può essere chiesto, a spese addirittura di chi lo richiede, cioè Trump, che chiaramente non ha problemi economici, ma il problema è che Trump non sta facendo leva su questi che sarebbero dati di fatto, come dici tu, previsti dalla legge. Lui continua, l'ha fatto ieri Kayleigh McEnany dalla Casa Bianca, ho sentito anche Simone Spezia stamattina che lo sottolineava, 24 Mattino, è stata sfumata da Fox News, esattamente come era accaduto giorni fa da MSNBC e CBS e CNN, perché accusava platealmente di brogli, senza specificare, tutto il Partito Democratico. Quindi per ora appunto siamo alla fase delle accuse, del sospetto, ma non ci sono queste prove che invece gli americani stessi vorrebbero vedere, se ci fossero. E se vuoi, da giornali tedeschi, insomma, naturalmente questa notizia del vaccino ha colpito tutti tantissimo, sulle prime pagine di tutti i giornali, ma la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un quotidiano tedesco molto compassato, difficilmente, insomma, pubblica vignette così, questa volta ha un Joe Biden che tiene in mano il parrucchino di Trump, che poi in realtà lo non scalpo, so se esatto, lo scalpo, come se fosse lo scalpo. Questa è una posizione molto forte. Angela Merkel sono 3 giorni che fa il suo, ripete questi, queste dichiarazioni molto favorevoli verso Biden. Ho imparato una parola nuova oggi che è bellissima, una parola tedesca, un verbo in realtà, che è Versöhnen, che vuol dire Sohn, vuol dire figlio in tedesco, quindi vuol dire tornare a rendere fratelli. Questo è il verbo che molti giornali scelgono per far capire qual è il compito difficilissimo che spetta Joe Biden, cioè di riunire la grande famiglia americana. Certo, per ora c'è molto ottimismo, molte dichiarazioni, il primo atto è stato quello sul Covid. Ieri Joe Biden ha detto I implore you, cioè vi imploro americani di indossare questa famosa mascherina, che non è una questione politica. Per chiudere con l'America, perché ci vuoi far ascoltare anche la voce di Fauci? Fauci è stato intervistato ieri da molte TV, tra l'altro anche qui Alessio, quanto almeno io come giornalista, sì, mi sento di imparare, di avere tantissimo da imparare dagli americani. Non si mette un microfono per un secondo e mezzo in una trasmissione televisiva per far capire una cosa e poi si passa a un altro argomento come succede da noi. Wolf Blitzer ha intervistato Anthony Fauci per 15 minuti, gli ha fatto domande per far veramente capire agli ascoltatori. Anthony Fauci in questo momento non è più nella task force, o meglio non è stato coinvolto nella task force di Biden, probabilmente resterà presidente del National Institute of Infectious Diseases e qui si dice ottimista per il vaccino. Ma sentiamo la sua voce. What I'm doing now with regard to getting a vaccine and getting this country well in the sense of towards normality, which I think we're going to be able to get there with this vaccine. Dice, è un'intervista molto bella perché è sicuramente un uomo stanco, un uomo provato, ma che si rifiuta di usare qualsiasi tono, si rifiuta di criticare anche il presidente Trump, e quando Wolf Blitzer gli chiede ma lei è stato chiamato da Biden, dice me lo state chiedendo tutti, se avranno bisogno di me io mi renderò disponibile, adesso voglio semplicemente mettere la mia esperienza al servizio di Biden, con il quale tra l'altro aveva già lavorato, perché quando Biden era vicepresidente con Obama si lavorò ad altre epidemie come l'Ebola, quindi si conoscono bene, credo si stimino anche. Senti Giulia, ma davvero i giornali inglesi si interrogano sulle origini irlandesi di Biden e qui c'è un po' di frizione? Sì, perché Biden, lo sappiamo, l'abbiamo detto, è un cattolico come moltissimi cattolici americani, è di origine irlandese, sì. Sappiamo che Boris Johnson, e qui fate ognuno faccia le sue considerazioni su come si passa velocemente dal dichiararsi amico di Trump a voler diventare amico di Biden, ha detto a me America e Regno Unito sono sempre stati amici, hanno molto più in comune di quello che invece ci divide in questo momento e sempre, dallo staff di Joe Biden è trapelata una specie di cautela, cioè calmiamoci perché noi non possiamo dare il nostro assenso a una hard Brexit che si risolva con quella famosa questione nordirlandese che potrebbe, ha già riacceso le tensioni politiche, certo, tra i protestanti e i cattolici, che è ovviamente una questione che Joe Biden sente molto da vicino, quindi credo che Boris Johnson debba farsi non troppe illusioni, ecco, che si passi tranquillamente dall'amicizia, dai baci con Trump a quelli con Biden. Allora, Gran Bretagna, Germania, abbiamo detto un pochino Francia, vogliamo dire Francia, qualcosa? Devo dire, i giornali francesi hanno uno sguardo anche, non soltanto, certo, ripeto, titolo principale sul vaccino, editoriale in attesa del vaccino, però c'è anche una foto scattata perché c'è questa offensiva dell'Azerbaigian e questo conflitto che continua, sì, con un ruolo di Putin che tra l'altro è tra i pochi leader mondiali a non essersi ancora congratulato in qualche modo o aver commentato le elezioni americane, però intanto è molto concentrato su quel conflitto. Tra l'altro ieri sono anche stati abbattuti alcuni aerei russi, quindi la situazione è preoccupante, una di quelle tante pentole a pressione che così ci dobbiamo per forza di cose un po' dimenticare perché siamo immersi nella pandemia. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo domani per la puntata di oggi. È tutto, con Pietro La Corte regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco con l'aggiornamento delle 14 da Alessio Maurizi. Ciao, buona giornata.